Lettera 15. Mrs. Vernon a Lady De Courcy Churchill. Mia cara madre, vi restituisco la lettera di Reginald. Mi rallegro con tutto il cuore che il babbo ne sia stato rasserenato. Diteglielo con le mie congratulazioni. Ma detto tra noi, devo riconoscere che a me ha solo confermato che mio fratello non ha al momento intenzione di sposare Lady Susan, non che non corra rischio di farlo da qui a 3 mesi. Fornisce una spiegazione molto plausibile del comportamento di Lady Susan a Langford. Vorrei che fosse vera, ma le sue informazioni provengono da lei e io sono meno disposta a crederci rispetto a quanto deplori il grado di intimità tra di loro implicito nell'aver discusso di un argomento del genere. Mi dispiace di aver provocato il suo disappunto, ma non posso aspettarmi nulla di meglio finché sarà così ansioso di giustificare Lady Susan. È davvero molto severo con me, ma spero di non averla giudicata affrettatamente. Povera donna, anche se ho ragioni bastanti per la mia antipatia, non posso fare a meno di compatirla in questo momento, dato che è veramente angosciata e fin troppo ha ragione. Stamattina ha ricevuto una lettera dalla signora alla quale aveva affidato la figlia, con la richiesta che Miss Vernon sia immediatamente portata via, dato che è stata scoperta mentre tentava di fuggire. Perché o dove avesse intenzione di andare non si sa, ma visto che la circostanza sembra essere incontrovertibile, è una cosa triste e naturalmente addolora molto Lady Susan. Frederica deve avere ormai 16 anni e dovrebbe essere più giudiziosa, ma da quanto dice la madre, temo che sia una ragazza cocciuta. Tuttavia è stata tristemente trascurata e la madre dovrebbe ricordarsene. Mr. Vernon è partito per Londra non appena lei ha deciso il da farsi. Tenterà, se possibile, di convincere Miss Summers a lasciare che Frederica resti con lei e, se non avrà successo, per il momento la porterà a Churchill, in attesa di trovarle qualche altra sistemazione. Nel frattempo sua signoria si consola passeggiando con Reginald nel boschetto, approfittando di questa penosa occasione per fare appello a tutti i suoi teneri sentimenti. Ne ha parlato moltissimo anche con me, parla assai bene. E ho paura di essere meschina, altrimenti direi che parla troppo bene per avere sentimenti così profondi. Ma non voglio trovarle per forza dei difetti, potrebbe diventare la moglie di Reginald. Dio ce ne scampi! Ma perché dovrei avere la vista più acuta degli altri? Mr. Vernon afferma di non avere mai visto un'angoscia più intensa della sua quando ha ricevuto la lettera. E può essere il suo giudizio inferiore al mio? Era molto restia a permettere a Frederica di venire a Churchill, e giustamente, dato che sembra una specie di ricompensa per un comportamento che meriterebbe ben altro. Ma era impossibile portarla da un'altra parte e non rimarrà qui a lungo. «Sarà assolutamente necessario», ha detto Lady Susan. «Come voi, mia cara cognata, certamente capirete, trattare mia figlia con una certa severità, mentre sarà qui, una necessità molto dolorosa, ma mi sforzerò di rassegnarmici. Temo di essere stata spesso troppo indulgente. Ma il carattere della mia povera Frederica non ha mai sopportato bene di essere contrastato. Dovete sostenermi e farmi coraggio, dovete esortarmi ai necessari rimproveri, se mi vedete troppo tenera». Tutto ciò suona molto ragionevole. Reginald è così irritato contro quella povera e sciocca ragazza. Certo non fa onore a Lady Susan che egli si sia così accanito contro la figlia. È un'opinione che deve avere ricavato dalla descrizione della madre. Qualunque sia il suo destino, noi abbiamo la consolazione di sapere che abbiamo fatto del nostro meglio per salvarlo. Dobbiamo affidarci a un potere più alto. Sempre vostra, eccetera, eccetera. Catherine Vernon. Lettera 16. Lady Susan a Mrs. Johnson, Churchill. Mai, mia carissima Alicia, mi sono sentita così irritata in vita mia come da una lettera di stamattina di Miss Summers. Quell'orribile ragazza di mia figlia ha cercato di fuggire. Non ho mai avuto idea che fosse un tale demonietto. Sembrava avere tutta la mansuetudine dei Vernon, ma quando ho ricevuto la lettera nella quale dichiaravo le mie intenzioni riguardo a Sir James, ha di fatto tentato di scappare. Almeno non trovo altre spiegazioni per quello che ha fatto. Immagino che avesse intenzione di andare nello Staffordshire dai Clark, perché non ha altre conoscenze. Ma deve essere punita, deve sposarlo. Ho mandato Charles a Londra per risolvere la faccenda, perché non la voglio assolutamente qui. Se Miss Summers non vorrà tenerla, devi cercarmi un'altra scuola, a meno che non si riesca a farla sposare immediatamente. Miss Summers scrive che non è riuscita a far confessare alla signorina il motivo della sua condotta inaudita, il che conferma la spiegazione che me ne ero data io. Credo che Frederica sia troppo timida e abbia troppa soggezione di me per parlare. Ma se la dolcezza dello zio dovesse cavarle qualcosa, non ho alcun timore. Di certo sarò capace di inventare una storia credibile quanto la sua. Se c'è qualcosa di cui mi possa vantare è la mia eloquenza. Rispetto e stima sono sempre agli ordini della parola, così come l'ammirazione è soggetta alla bellezza. Io qui ho sufficienti occasioni per esercitare il mio talento, dato che la maggior parte del mio tempo la passo in conversazione. Reginald non è contento a meno che non siamo da soli, e quando il tempo lo permette passeggiamo insieme per ore nel boschetto. Nel complesso mi piace moltissimo. È intelligente, sa parlare di molte cose, ma talvolta è impertinente e noioso. In lui c'è una sorta di ridicola delicatezza che lo spinge a chiedere conto nei particolari di qualsiasi cosa possa aver sentito contro di me e non è mai soddisfatto finché non crede di aver chiarito tutto dal principio alla fine. Ah, anche questo è amore, ma confesso che non è del tipo che mi aggrada di più. Preferisco infinitamente l'animo tenero e liberale di Mainwaring, che, ispirato dalla profonda convinzione dei miei meriti, ritiene che qualsiasi cosa io faccia sia nel giusto. E guarda con un certo disprezzo ai capricci indiscreti e incerti di quei cuori che sembrano sempre mettere in discussione la ragionevolezza delle loro emozioni. Mainwaring è davvero incomparabilmente superiore a Reginald, superiore in tutto, salvo la possibilità di stare con me. Poverino, è pazzo di gelosia, il che non mi dispiace, dato che non conosco un sostegno migliore per l'amore. Mi ha tormentato per lasciarlo venire da queste parti, prendendo alloggio in incognito in qualche posto vicino. Ma ho proibito una cosa del genere. Sono imperdonabili quelle donne che dimenticano ciò che è dovuto a loro stesse e all'opinione della gente. Susan Vernon. Lettera 17. Mrs. Vernon a Lady De Courcy. Churchill. Mia cara madre, Mr. Vernon è tornato giovedì sera portando sua nipote con sé. Lady Susan aveva ricevuto un suo biglietto con la posta di quel giorno con la notizia che Miss Summers si era assolutamente rifiutata di permettere la permanenza di Miss Vernon nel suo istituto. Eravamo quindi preparate al suo arrivo e li abbiamo aspettati con impazienza per tutto il pomeriggio. Sono arrivati mentre prendevamo il tè e non avevo mai visto in vita mia una creatura dall'aria così impaurita come Frederica quando è entrata nella stanza. Lady Susan, che prima si era sciolta in lacrime e si era mostrata molto agitata all'idea di quell'incontro, l'ha accolta con perfetto autocontrollo e senza tradire la minima tenerezza. Le ha a malapena rivolto la parola. E quando Frederica è scoppiata in lacrime, non appena ci siamo sedute, l'ha portata via e per un po' non è tornata. Quando è rientrata aveva gli occhi molto rossi ed era agitata come prima. La figlia non l'abbiamo più vista. Il povero Reginald era turbato oltre misura nel vedere la sua bella amica in tali ambasce e la osservava con una sollecitudine così tenera che io, che di tanto in tanto l'avevo sorpresa a osservare la sua espressione con esultanza, avevo proprio perso la pazienza. Questa scena patetica è durata per l'intera serata e uno sfoggio di dolore così ostentato e calcolato mi ha convinta pienamente che in realtà non provava nulla. Sono più che mai in collera con lei da quando ho visto la figlia. La povera ragazza ha un'aria così infelice che mi spezza il cuore. Lady Susan è sicuramente troppo severa, perché Frederica non sembra avere un carattere che renda necessaria la severità. Sembra timidissima, avvilita e pentita. È molto graziosa, anche se non bella come la madre, e non le somiglia affatto. Ha la carnagione delicata, ma né così chiara né così florida come Lady Susan, e ha i tratti dei Vernon, l'ovale del volto, gli occhi miti e scuri, e c'è una particolare dolcezza nel suo sguardo quando parla con lo zio o con me, perché, dato che con lei ci comportiamo gentilmente, abbiamo naturalmente suscitato la sua gratitudine. La madre ha insinuato che ha un carattere intrattabile, ma io non ho mai visto un volto meno rivelatore di una cattiva indole del suo, e da quello che adesso posso vedere nel comportamento reciproco, l'inalterabile severità di Lady Susan e il silenzio avvilito di Frederica sono portata a credere, come è stato fino adesso, che la prima non ami affatto la figlia e non le abbia mai reso giustizia, né l'abbia mai trattata con affetto. Non sono ancora riuscita a fare una chiacchierata con mia nipote. È ritrosa e mi pare di vedere che ci si preoccupi di impedire che stia troppo a lungo con me. Nulla di plausibile è trapelato sui motivi della fuga. Potete star certa che il suo premuroso zio aveva troppa paura di addolorarla, facendole troppe domande durante il viaggio. Avrei voluto essere io ad andarla a prendere invece che lui. Credo che in un tragitto di 30 miglia la verità l'avrei scoperta. Il pianoforte piccolo è stato da qualche giorno spostato, dietro richiesta di Lady Susan, nello spogliatoio, e Frederica passa là gran parte della giornata. A esercitarsi, si dice, ma di rado sento qualche rumore quando passo di là. Che cosa ci faccia lì da sola non lo so. Nella stanza ci sono un bel po' di libri, ma nessuna ragazza abbandonata a se stessa per i primi 15 anni della sua vita può essere in grado o avere voglia di leggerli. Povera creatura. La vista dalla finestra non è molto educativa, poiché, come sapete, la stanza dà sul prato con a fianco il boschetto dove può vedere la madre passeggiare per un'ora intera, immersa in conversazione con Reginald. Una ragazza dell'età di Frederica dovrebbe essere davvero infantile per non essere colpita da una cosa simile. Non è imperdonabile dare un tale esempio a sua figlia. Eppure Reginald considera ancora Lady Susan come la migliore delle madri e condanna ancora Frederica come una ragazza indegna. È convinto che il suo tentativo di fuga non abbia alcun motivo e non sia stato provocato da nulla. Non sono certo io a poter dire che cosa sia successo, ma quando Miss Summers dichiara che Miss Vernon non aveva mostrato alcun segno di caparbietà o perfidia durante l'intero soggiorno a Wigmore Street, fino a quando non era stato scoperto il suo progetto, non posso prestar fede così facilmente a ciò che Lady Susan ha fatto credere a lui e vuol far credere a me, ovvero che solo l'insofferenza per le restrizioni e il desiderio di sfuggire alla tutela delle insegnanti siano state le cause del suo progetto di scappare. Oh, Reginald, come hai reso schiavo il tuo giudizio! Non osa nemmeno ammettere che sia attraente, e quando parlo della sua bellezza replica soltanto che ha occhi privi di splendore. Talvolta è certo che sia scarsamente intelligente, e altre volte che si tratti solo di difetti nel carattere. In breve, quando una persona vive nell'inganno, è impossibile che sia coerente. Lady Susan lo ritiene necessario per giustificarsi, dire che è Frederica dover essere biasimata, e probabilmente ha giudicato opportuno qualche volta di accusarla di avere un'indole cattiva e qualche altra di lamentare la sua mancanza di buon senso. E Reginald si limita ad andare dietro a sua signoria. Sono vostra figlia Catherine Vernon. Lettera 18. Dalla stessa alla stessa Churchill. Mia cara signora, sono felicissima che la mia descrizione di Frederica Vernon abbia suscitato il vostro interesse, perché credo che meriti davvero la vostra stima, e quando vi avrò messo a parte di un'idea che mi è venuta in mente di recente, sono certa che la vostra buona opinione nei suoi confronti ne risulterà accresciuta. Non posso fare a meno di immaginare che stia cominciando ad avere un debole per mio fratello, tanto spesso vedo i suoi occhi fissi sul volto di lui con un'evidente espressione di pensosa ammirazione. Lui è certamente molto attraente e in più c'è una schiettezza nelle sue maniere che lo rende estremamente simpatico, e sono certa che i sentimenti di Frederica siano in tal senso. La sua espressione, di solito pensosa e riservata, si illumina in un sorriso quando Reginald dice qualcosa di divertente, e per quanto serio possa essere l'argomento di cui parla, mi sbaglierei di grosso se affermassi che le sfugga una sillaba pronunciata da lui. Vorrei renderlo consapevole di tutto ciò, perché sappiamo quale potere abbia la gratitudine su un cuore come il suo, e se l'affetto spontaneo di Frederica lo allontanasse dalla madre, potremmo benedire il giorno che l'ha portata a Churchill. Credo, mia cara signora, che non la disapprovereste come figlia. Certo, è estremamente giovane, ha avuto un'educazione infelice e un terribile esempio di frivolezza da parte della madre, eppure posso affermare che ha un'indole eccellente e ottime doti naturali. Benché totalmente priva di istruzione, non è affatto così ignorante come ci si potrebbe aspettare, visto che ama i libri e passa la maggior parte del suo tempo a leggere. La madre la lascia a se stessa più di quanto facesse, e io la tengo con me il più possibile e ho faticato molto a vincerne la timidezza. Siamo ottime amiche ora, e benché non apra mai bocca davanti alla madre, quando è sola con me parla abbastanza, rendendo palese che se fosse trattata appropriatamente da Lady Susan, il suo modo di fare ne trarrebbe un indubbio vantaggio. Non può esserci un animo più gentile e affettuoso o maniere più disponibili quando può agire liberamente. I cuginetti l'adorano. Con affetto, vostra figlia Catherine Vernon. Lettera 19. Lady Susan a Mrs. Johnson, Churchill. Ah, Alicia, so che sarai ansiosa di sapere qualcosa di più di Frederica e forse mi riterrai negligente per non aver scritto prima. È arrivata con lo zio giovedì di 2 settimane fa e naturalmente in quel momento non ho perso tempo a chiederle ragione del suo comportamento, ma ho presto scoperto da sola di essere stata perfettamente nel giusto nell'attribuirlo alla mia lettera. Il suo contenuto l'ha talmente spaventata che con un misto di autentica perversità giovanile e di stupidità, senza considerare che non sarebbe potuta sfuggire alla mia autorità scappando da Wigmore Street, ha deciso di abbandonare il collegio e di avviarsi con una carrozza pubblica direttamente dai suoi amici Clark. E si era in effetti allontanata di due isolati quando per fortuna ne hanno scoperto l'assenza e l'hanno inseguita e acciuffata. Tale è stata la prima rimarchevole impresa di Miss Frederica Susanna Vernon, e se si considera che è stata attuata alla tenera età di 16 anni, eh beh, resta ampio spazio per i più fantasiosi pronostici circa la sua fama futura. Comunque sono estremamente irritata dallo sfoggio di decoro che ha impedito a Miss Summers di tenersi la ragazza, e sembra un eccesso di scrupolo talmente eccessivo, considerate le parentele di mia figlia, che suppongo la signora sia stata spinta dal timore di non vedere mai i propri soldi. Comunque sia, Frederica è di nuovo sulle mie spalle e, non avendo nient'altro da fare, è impegnata a proseguire i suoi piani di amore romantico iniziati a Langford. Si sta infatti innamorando di Reginald De Courcy. Non le basta disobbedire alla madre rifiutando un partito ineccepibile. In aggiunta deve dispensare il suo affetto senza l'approvazione materna. Non ho mai visto una ragazza della sua età offrirsi con più leggerezza a diventare lo zimbello del genere umano. Nutre sentimenti molto vivi e li rivela con una spontaneità così incantevole da permettere la più che ragionevole speranza che si esporrà al ridicolo e al disprezzo di ogni uomo che incontrerà. La spontaneità non servirà mai negli affari di cuore, e quella ragazza è sempre stata una sempliciotta spontanea per natura o per posa. Non sono ancora certa che Reginald abbia notato come si comporta, né la cosa ha molta importanza. Per ora lui la tratta con indifferenza, se poi ne comprendesse le emozioni la tratterebbe con disprezzo. La sua bellezza è molto apprezzata dai Vernon, ma su di lui non ha effetto. Gode del massimo favore della zia, naturalmente perché mi somiglia così poco. È la compagna perfetta per Mrs. Vernon, che ama primeggiare e monopolizzare il tono e lo spirito della conversazione. Frederica non la eclisserà mai. Quando è arrivata, mi sono data un po' di pena per impedirle di stare troppo con la zia. Ma da allora ho lasciato correre perché credo di poter contare su di lei per l'osservanza delle regole che ho stabilito per le loro conversazioni. Ma non pensare che con tutta questa indulgenza io abbia per un solo momento rinunciato al progetto per il suo matrimonio. No, su questo punto la mia decisione è irrevocabile, anche se non ho ancora deciso il modo di portarlo a compimento. Preferirei che qui non si sapesse nulla della faccenda, che sarebbe esaminata da quelle teste fini di Mr. e Mrs. Vernon, e per ora non mi posso permettere di andare a Londra. Miss Frederica, perciò, dovrà aspettare un po'. Sempre tua, Susan Vernon. Lettera 20. Mrs. Vernon a Lady De Courcy, Churchill. Al momento abbiamo con noi un ospite del tutto inaspettato, mia cara madre. È arrivato ieri. Ho sentito una carrozza alla porta mentre stavo con i bambini che erano a pranzo e, immaginando che mi avrebbero cercata, ho lasciato subito la loro stanza ed ero scesa a metà scala quando Frederica, pallida come una morta, è salita correndo e mi ha sfiorata precipitandosi nella sua stanza. L'ho seguita immediatamente e le ho chiesto che cosa fosse successo. Oh! Ha esclamato. È arrivato! È arrivato, Sir James! Oh, come farò! Come farò! Questa non era una spiegazione. L'ho pregata di dirmi che cosa intendesse e in quell'istante siamo state interrotte di colpo da un colpo alla porta. Era Reginald che veniva per conto di Lady Susan a chiedere a Frederica di scendere. «È Mr. De Courcy!» ha detto lei arrossendo violentemente. «Mamma mi ha mandata a chiamare e devo andare!» Siamo scese tutte e tre insieme e ho visto mio fratello che esaminava sorpreso il volto atterrito di Frederica. Nella sala della colazione abbiamo trovato Lady Susan e un giovanotto dall'aspetto distinto che lei ha presentato come Sir James Martin, la stessa persona, come forse ricorderete, che a quanto si diceva si era sforzata di allontanare da Miss Mainwaring. Ma sembra che la conquista non fosse destinata a lei, oppure da allora alla passata alla figlia, perché Sir James adesso è perdutamente innamorato di Frederica e con il pieno consenso della mamma. Tuttavia sono certa che alla povera ragazza non piace, e sebbene l'aspetto e il modo di comportarsi siano da persona per bene, sia a Mr. Vernon che a me dà l'impressione di essere un giovanotto, privo di carattere, un po' stupidotto. Frederica appariva così timida, così confusa, quando siamo entrati nella stanza che ho provato una gran pena per lei. Lady Susan si comportava con molta cortesia verso il suo ospite, eppure mi è sembrato di capire che non provasse particolare piacere nel vederlo. Sir James ha parlato molto e mi ha espresso cortesemente molte scuse per la libertà che si era preso venendo a Churchill, inframmezzando al suo discorso molte più risate di quante l'argomento ne richiedesse. Ha ripetuto a iosa le stesse cose e ha detto 3 volte a Lady Susan che qualche sera prima aveva visto Mrs. Johnson. Di tanto in tanto si rivolgeva a Frederica, ma più spesso alla madre, e la povera ragazza è rimasta tutto il tempo seduta senza aprire bocca, gli occhi bassi e un colorito che cambiava ogni istante, mentre Reginald osservava tutto ciò che accadeva in perfetto silenzio. Alla fine Lady Susan, credo stanca della situazione, ha proposto una passeggiata e abbiamo lasciato soli i 2 signori per andare a prendere i mantelli. Appena arrivate di sopra, Lady Susan mi ha pregato di concederle di accompagnarmi per qualche momento nel mio spogliatoio, dato che era ansiosa di parlarmi in privato. Di conseguenza l'ho condotta da me e non appena chiusa la porta ha detto: Nulla in vita mia mi ha sorpresa di più dell'arrivo di Sir James, ed è stato così improvviso che esige delle scuse verso di voi, mia cara cognata, benché per me come madre sia estremamente lusinghiero. Lui è così ardentemente attaccato a mia figlia che non poteva più vivere senza vederla. Sir James è un giovanotto con un'indole simpatica e un carattere eccellente. Sì, un po' troppo chiacchierone, forse, ma in un anno o due si correggerà e per altri aspetti è un partito così vantaggioso per Frederica che ho sempre considerato il suo attaccamento con enorme piacere e sono convinta che voi e mio cognato concederete a questa unione la vostra sincera approvazione. Finora non ho mai parlato con nessuno di questa possibilità perché pensavo, mentre Frederica frequentava la scuola, sarebbe stato meglio che non se ne sapesse nulla, ma ora, dato che mi sono convinta di come Frederica sia troppo grande per sopportare di restare reclusa in una scuola, ho perciò iniziato a considerare la sua unione con Sir James non troppo lontana. Avevo intenzione, nell'arco di qualche giorno, di mettere al corrente voi e Mr. Vernon dell'intera faccenda. Sono certa, mia cara cognata, che voi scuserete il mio lungo silenzio sull'argomento e concorderete con me che in tali circostanze, fin tanto che vi sia una qualsiasi incertezza, non si è mai troppo prudenti nel tenerle nascoste. Quando da qui a qualche anno avrete la gioia di concedere la vostra dolce piccola Catherine a un uomo che, come lignaggio e carattere, sia ugualmente ineccepibile, capirete che cosa provo io adesso. Anche se, grazie al cielo, voi non avete tutti i motivi che ho io per gioire di questo evento. Catherine sarà economicamente al sicuro e non sarà costretta, come la mia Frederica, a contare su una buona sistemazione per godere gli agi della vita. Ha concluso chiedendomi di farle le mie congratulazioni. Gliele ho fatte, credo, un po' goffamente, perché in effetti l'improvvisa rivelazione di un affare così importante, beh, mi aveva tolto la capacità di parlare con chiarezza. Comunque mi ha ringraziata molto affettuosamente del mio cortese interesse per il bene suo e della figlia e poi ha detto: Non sono capace di esprimermi come dovrei, mia cara Mrs. Vernon, e non ho mai avuto l'utile dote di fingere sensazioni estranee al mio cuore e quindi confido. Beh, confido che vorrete credermi se affermo che per quante lodi io avessi sentito nei vostri confronti prima di conoscervi, non avrei mai immaginato di potermi affezionare a voi quanto lo sono adesso. E devo inoltre dire che la vostra amicizia per me è ancora più gratificante perché ho ragione di credere che ci siano stati dei tentativi di mettervi contro di me. Vorrei solo che coloro, chiunque si siano, ai quali devo questi buoni uffici, potessero vedere in quali termini siano ora i nostri rapporti e capire l'autentico affetto che proviamo l'una per l'altra. Ma non vi tratterò oltre. Dio vi benedica per la vostra bontà verso di me e mia figlia e serbi intatta tutta la vostra felicità attuale. Che si può dire di una donna del genere, mia cara madre? Una tale sincerità, una tale solennità di espressione, eppure non posso fare a meno di dubitare della verità di tutto ciò che ha detto. Quanto a Reginald, credo che non sappia che pesci prendere. Quando è arrivato Sir James, appariva del tutto stupito e perplesso. La stupidità del giovanotto e la confusione di Frederica lo hanno interamente assorbito, e anche se una breve conversazione privata con Lady Susan ha poi sortito il suo effetto, sono certa che sia ancora urtato dal fatto che lei permetta a un uomo del genere di fare la corte a sua figlia. Sir James si è tranquillamente autoinvitato a restare qui per qualche giorno. Sperava che non l'avremmo ritenuta una cosa bizzarra. Si rendeva conto di essere molto maleducato, ma si prendeva la libertà di un parente e ha concluso con una risata, augurandosi di diventarlo davvero molto presto. Persino Lady Susan è sembrata un po' sconcertata dalla sua sfacciataggine. Sono convinta che in cuor suo speri sinceramente che se ne vada. Ma qualcosa deve essere fatto per quella povera ragazza. Se i suoi sentimenti sono quelli di cui siamo convinti sia lo zio che io, non deve essere sacrificata alla convenienza o all'ambizione. Non si può nemmeno permettere che soffra per paura di esserne vittima. Una ragazza il cui cuore è capace di distinguere un Reginald Kersey merita, per quanto egli possa trascurarla, un destino migliore rispetto a quello di diventare la moglie di Sir James Martin. Non appena riuscirò a parlarle da sola, scoprirò la verità, ma sembra che cerchi di evitarmi. Spero che ciò non sia indice di un qualche fraintendimento e di non trovarmi a scoprire di aver pensato troppo bene di lei. Il suo comportamento davanti a Sir James dimostra certamente un'estrema consapevolezza e un altrettanto estremo imbarazzo, in cui però non vedo affatto un qualsiasi incoraggiamento. Addio, mia cara signora. Vostra Catherine Vernon.